America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano, Mario Platero. Sono ancora di passaggio in Italia per qualche giorno dopo il viaggio della settimana scorsa a seguito del presidente Obama. Durante quel viaggio si è parlato molto ovviamente di Edward Snowden e abbiamo oggi novità in questo momento. Snowden è in viaggio da Mosca verso Cuba, da lì sembra dovrebbe andare in Ecuador. Kaitlin Hayden, che è il portavoce del National Security Council, era già allora alquanto preoccupata degli sviluppi attorno a questa vicenda. Ve lo ricordo, Snowden è un ex agente della CIA accusato di spionaggio, di tradimento dal governo americano, dal Dipartimento per la Giustizia americana, per aver rivelato come gli Stati Uniti combattono il terrorismo violando la privacy dei cittadini americani, entrando cioè in tabulati telefonici che creano dei problemi, secondo lui, per la tutela di quelli che sono i valori fondamentali della Costituzione americana. Ovviamente il governo americano la pensa in modo diverso. Beh, insomma, ormai questa vicenda ha dei tratti rocamboleschi, perché Snowden era a Hong Kong. Sappiamo, o almeno si dice, che il governo di Pechino abbia così cercato di accelerare la sua uscita per non trovarsi in mezzo a delle grane di carattere legale. L'America ha fatto enormi pressioni su Mosca, dove Snowden si era recato ieri, perché fosse trattenuto dalle autorità russe, ma le autorità russe lo hanno già fatto partire. La vicenda ovviamente va avanti dal punto di vista della cronaca e in divenire cercheremo di tenervi informati, ma apre, come abbiamo già discusso in passato qui ad America 24, un dibattito ben più ampio su controlli dei dati telefonici, sulla violazione della privacy dei cittadini americani e internazionali, come ha denunciato Snowden. Più in generale dunque si parla di diritti e il dibattito è esteso, perché si parla per esempio del diritto di un gay di essere gay. C'è stato un omicidio di un gay a New York non tanto tempo fa. Ci sono delle volgarità su internet, proprio sulla rete c'è questa idea che ci debba essere una totale libertà, però fino a che punto? Forse fino al punto in cui la libertà propria non va ad ostruire la libertà degli altri. Ecco, la questione del diritto e del rispetto della Costituzione nel discorso del problema Snowden, secondo me, è molto molto interessante. Dunque ho con me ai microfoni di America 24 Carrie Kennedy, la figlia di Robert Kennedy, il fratello del presidente ucciso a sua volta nel 68. Carrie Kennedy oggi si occupa di diritti civili con la Robert J. Kennedy Foundation. Buongiorno Carrie. It's great to be here. Thank you. Carrie, you made a mission. Basically, you're dedicating your life to the respect of human rights. How do you view what's happening these days? It's like there is no limit. Well, I think you're right. You can make a strong argument that human rights are more abused now than ever before. Ecco, chiesto a Carrie, tu hai dedicato la tua vita alla difesa dei diritti umani, ma come vivi quello che sta succedendo in questi giorni? Sembra che non ci sia più rispetto per nulla, per nessuno. E lei mi risponde, beh, certamente ragione. Per esempio, sulla questione delle telefonate, il dibattito aperto, perché da una parte c'è una questione di sicurezza, dall'altra c'è una tutela dei diritti civili, può essere un territorio grigio, però ci sono altri casi che sono chiarissimi di violazione dei diritti umani, di abusi sulle donne in tutto il mondo, attacchi razziali contro gli immigrati, contro i gay e così via. D'altra parte, dicevo, sono abbastanza ottimista perché ho lavorato alla difesa dei diritti umani per gli ultimi 30 anni, sono stata testimone di un cambiamento straordinario quando ho cominciato nell'81. L'America Latina, per esempio, era dominata da dittature militari, oggi questi paesi hanno abbracciato la democrazia, l'Europa dell'Est era sotto regimi comunisti, oggi non c'è più un solo leader comunista in questi paesi, la Repubblica Sudafricana era divisa dall'apartheid. Oggi tutti i cittadini eleggono liberamente il loro presidente. I diritti delle donne non erano neppure all'ordine del giorno della comunità internazionale. Nel 95, quando Hillary Clinton, in un viaggio in Cina, disse i diritti delle donne rientrano nei diritti umani, fu una rivoluzione. Oggi i diritti delle donne sono una priorità della comunità internazionale. Se ne parla in quasi tutti gli incontri di capi di Stato. Quindi mi sento ottimista. Credo che quel che disse Martin Luther King, che la storia va nella direzione di maggiore giustizia, sia assolutamente vero. I think what's much more interesting is the structural issues. So not somebody who snaps and goes and attacks somebody. Eppure dico, ci sono due passi avanti e uno indietro, e ricordo un episodio di qualche settimana fa per le strade di New York un ragazzo gay è stato ucciso in modo brutale. Mi risponde Kerry, in questi casi quello che dobbiamo guardare sono i problemi strutturali. Perché ad esempio la nostra polizia non indaga a sufficienza sulla violenza domestica? Perché i PM non si impegnano a questo riguardo? I nostri giudici non condannano questi abusi? Questo per me è un problema centrale da risolvere. Poi affronta la questione di cui si dibatte, cioè che qualche volta la polizia, pur di risolvere il caso, incastra qualcuno e il poveretto magari finisce in prigione per degli anni, fino a quando poi magari una rivelazione sul DNA non consente di stabilire che era assolutamente innocente. E mi dice che le dichiarazioni dei diritti umani delle Nazioni Unite è arrivata dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la comunità internazionale si rese conto che le violazioni dei diritti umani, come quelli della Germania nazista, non erano accettabili, anche se erano violazioni commesse sotto l'apparente legalità di uno Stato, e che tutti noi dobbiamo farci sentire per impedire che accadano. Dunque, anche nel caso della polizia che cerca di incastrare qualcuno, beh, non è detto che perché lo dice la polizia sia giusto. You know, violation of human rights or humiliation happen in the corporate world also. This is something that I think is so important to consider. Right now, of the 100 largest economies on earth. Kerry Kennedy mi dice una cosa molto molto interessante. Pensate che metà delle 100 maggiori economie del mondo sono delle aziende. Walmart, per esempio, ha un fatturato che è più grande del prodotto interno lordo di una gran parte dei paesi del mondo. Dunque, dice, dobbiamo pretendere da queste aziende, da queste corporation, queste multinazionali, che si assumano le proprie responsabilità per come trattano i loro lavoratori, per i loro sistemi di produzione. Queste grandi multinazionali hanno un impatto diretto su tutti noi, sul mondo, in termini di rispetto dell'ambiente, dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori. Basta vedere quello che è successo in Bangladesh appena un mesetto fa. Say I'm not going to participate in any kind of racist or sexist joke, as I said. Ecco, chiedo dunque a Kerry qual è uno dei suoi principali programmi della fondazione, che messaggio dobbiamo dare parlando di diritti umani. Mi risponde che tutti si devono assumere le proprie responsabilità, i governi, le grandi corporation e noi stessi. Se qualcuno fa una battuta a sfondo razziale o discriminatorio, facciamoli notare che non ci fa ridere. Ecco, questo è un punto, devo dire, molto importante. La politically correctness è importante e mi racconta che ci sono dei corsi che loro fanno proprio per sensibilizzare la gente su questi problemi, e ci sono 1 milione di giovani in tutto il mondo che seguono questi corsi ogni anno. Cosa insegnano? Beh, per prima cosa, non accettiamo nessuna battuta a sfondo razziale o discriminatorio. Secondo, chiamate la polizia se siete a conoscenza di fatti o violenza domestica. Parlate, non dite questa cosa non mi riguarda, perché riguarda tutti noi. Terzo, fate qualcosa di positivo, fate volontariato, aiutate qualcuno in difficoltà per la strada, date una mano come potete per rendere il mondo un posto più giusto. Visitate il sito della fondazione sul rfkcenter.org. Basta far poco per affermare i diritti e perché il mondo sia un po' meglio di quello che è oggi. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Bene, eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo qui con noi ancora Kerry Kennedy e dunque vogliamo dedicare una canzone ai diritti umani. Kerry, a human rights song. What comes to your mind? Get up, stand up, stand up for your rights by Bob Marley. Take away everything and make everybody breathe high. But if you know what life is worth, you will look for yours on your earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, yeah, yeah. Stand up for your rights. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.